È come quando vedi che il giorno non ti passa più. È come quando aspetti un treno che non passa mai. È come quando pensi che non finiranno mai i tuoi guai. È come quando nei suoi occhi ti rispecchierai. È come quando vedo te, te, te. È come quando rivivrò momenti che non tornan più. È come quando aspetti un cielo che non torna blu. È come quando piangerò un po', un po'. C'è sempre una volta, c'è ancora una strada che ancora una volta mi porta a rischiare. Ancora una volta non può andare storta, lo sai. Spero che tu mi accompagnerai. L'ultima volta sarà sempre meglio, perché questa volta è quello che voglio. Ti prego ascolta, non chiudere la porta, lei no. Ti giuro che non ti deluderò. È come quando sei in un bar e anneghi dentro al tuo gin tonic, pensando che una vita fa e invece sembra ieri. Il tempo non si ferma mai e corre dietro i tuoi progetti. Su alcuni sarà già passato e ormai li avrà distrutti. È come quando scopri che in fondo non è troppo tardi. È come quando vedi un sogno che riapre gli occhi. Come quando sognerò un po'. E come quando spegnerai il mondo con i suoi rumori e resterai nel silenzio tuo dei tuoi pensieri. E come quando io vivo, vivrò, vivrò. C'è sempre una volta, c'è ancora una strada che ancora una volta mi porta a rischiare. Ancora una volta non può andare storta, lo sai. E spero che tu mi accompagnerai. L'ultima volta sarà sempre meglio, io, perché questa volta è quello che voglio. Ti prego ascolta, non chiudere la porta, lei no. Ti giuro che non ti deluderò.